mi ha acceso la vecchia, giusto per, perché ho sentito voi, ma era giusto per sentire. Ah, ero, anche stasera ero con Antonello Pomponio per fare i documenti, preparando i documenti per vedere un po' cosa ne c'è pure, vediamo un po'. Ascolto, le curiosità, come ti arrivo? Bene? La radio bene va? Mi ascolti bene? Tutto bene? Allora, la radio, a me mi arrivi, la radio è buona, però il segnale è un po' basso, a me, qua arrivi basso, ma arrivi una radio, Santiago, le cose, intorno ai 5 arrivi, dai. Santiago 5, Radio 5, questa lì è... sto provando questo Midland, c'ha 5 watt modulati, dai, giusti dalla fabbrica, dunque sono piccolino per quello, comunque l'importante è che mi senti, dai. O anche tu c'hai quel RM? E anche a me mi stai veramente massacrando, ma in questi giorni è veramente, sono 3 giorni che è proprio veramente fastidioso, dunque devi attenuare, e dunque bene o male, devi cercare un po' di cervello. Stefano, non l'hai sentito? No, nulla, non mi rispondo. chiamato e prendere il baracchino, dai, no, non ce n'è problema, dai. Comunque l'ho messo sull'occasione e adesso vediamo un po'. L'ho messo sull'occasione, l'ho telefonato e l'ho messo sull'occasione. Poi qualcuno ci affaccerà, se lo vuole, ci affaccerà. Vabbè. C'erano due ingegneri e due geometri, cazzo, tutte e quattro guardano a me, no? Io, come? Io ho stato la mano, gli ho detto, scusate un attimo, io mi aperto già, prima di fare la prova, io la moda, voglio essere onesto, la moda non la so usare, dunque, cosa devo fare? Dopo ci devono essere controllati, perché se non ci fosse un lavoro, magari è idoneo, cioè la cosa lavora ti fai male, ci chiamano loro, non tu. A parte che tu ti fai male, poi ci chiamano loro. Scusate, vi devo lasciare, è pronta la pappa. Se ci siete ci sentiamo dopo, dai, buon proseguimento, fatemi sentire dopo. Arrivederci, ci sentiamo più tardi, se è possibile, ci sono domani, dai.